9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, eccoci tornati in studio. Ci occupiamo oggi della sanità, o meglio, ci occupiamo di come fare il paragone dell'efficienza dei diversi sistemi sanitari regionali, di come riuscire a capire come è possibile che si continuino a formare deficit molto elevati in alcune regioni e che altre invece rimangano abbondantemente sopra la linea, e soprattutto qual è la misura più giusta per commisurare le spese, anche in deficit, che i deficit devono rientrare, alla qualità del servizio. Lo facciamo partendo da alcuni da alcune notizie che hanno infiammato le cronache politiche di questo inizio settimana, ma a voi poi chiediamo di chiamare all'800 24 00 24 per dirci la vostra, su che impressione avete di questa sanità così differenziata a livello regionale. Siete contenti del livello di miglioramento che avete constatato in questi anni, oppure sta peggiorando nella vostra realtà regionale? Perché il punto è che o ci diamo numeri condivisi per capire come i diversi sistemi sanitari regionali stanno evolvendo, oppure il federalismo fiscale, che per l'80% sarà fatto di sanità regionale, non riuscirà a stabilire bene come premiare i sistemi più efficienti e come invece far rientrare quelli più inefficienti. Vi ricordo qualche cifra e poi vi presento gli ospiti. All'inizio della settimana i tecnici del Ministero del Welfare hanno fatto un po' infiammare i presidenti delle regioni, perché ci hanno detto che del primo quadrimestre di quest'anno il deficit sanitario continua a essere fuori controllo, oltre 4 miliardi di euro, superiori ai 103 miliardi di euro che, ripeto, sono il fondo sanitario nazionale, quello concordato tra regioni e governo. Di queste 4 miliardi di deficit in via di formazione nel 2009, la stragrande maggioranza, 3.2 miliardi, sono nelle regioni del centro-sud, Lazio, Campania, Sicilia, Calabria, Molise e Abruzzo. Anche su questi criteri contabili i presidenti di regione sono insorti. Per esempio il presidente Galan della regione Veneto, che veniva imputato di essere fuori linea per 180 milioni di euro, ha ribadito duramente: chiederò i danni al Ministero del Welfare, perché non è affatto così. Comunque c'è un criterio innanzitutto su cui concordare, quello di mettere sotto controllo gli andamenti di spesa, perché i bilanci delle regioni sono fatti in criteri non omologhi dal punto di vista contabile. Poi, altro dato, nello stesso giorno un rapporto elaborato dal Censis ha elaborato più indicatori del sistema sanitario regionale comparato e ne ha fatto una specie di classifica della qualità dell'offerta sanitaria, mettendo insieme l'offerta ospedaliera, i medici per 1000 abitanti, il personale medico del servizio sanitario riscontrato nel giudizio dei consumatori, cioè dei malati, i posti letto per gli acuti e così via. Ha messo insieme una batteria di indicatori, li ha elaborati in maniera sufficientemente coerente per tutte le diverse regioni. Qual è il risultato? Che l'Emilia Romagna è in testa nella graduatoria di questo giudizio di offerta sanitaria con un punteggio di 67,6, pensate, alla Calabria in fondo con 9,8, e in fondo alla graduatoria c'è ancora una volta il Sud: Calabria, Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata, Sardegna. In testa alla graduatoria, dopo il 67,6 dell'Emilia Romagna, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia, Valle d'Aosta, Friuli, Venezia Giulia. Quindi una Italia, come al solito, molto divisa. Ci interrogheremo su questo, vi chiedo, oltre ai vostri interventi, e vi presento i nostri ospiti. Abbiamo collegato con noi Luca Ricolfi, che insegna metodologia della ricerca psicosociale all'Università di Torino e dirige l'Osservatorio del Nord-Ovest. Buongiorno, professor Ricolfi. Buongiorno. E abbiamo con noi Concetta Vaccaro, responsabile welfare del Censis. È stato il Censis a elaborare quest'ultimo indicatore di qualità del servizio sanitario regionale che vi ricordavo. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno a noi. Ricolfi, comincerei da lei, perché nei rapporti degli ultimi anni dell'Osservatorio del Nord-Ovest che lei dirige ci ha abituato, e ha abituato anche, secondo me, in maniera molto responsabile l'informazione, a iniziare a maneggiare un po' di numeretti per tentare di mettere a fuoco un criterio condiviso verso il quale poi indirizzare questa famosa riforma del federalismo fiscale. Si tratta di sostituire, si dice con gergo un po' tecnico, i criteri del costo storico, cioè il ripiano dei deficit sanitari di chi appunto più era fuori linea, che è il criterio, diciamo, che negli anni alle nostre spalle è stato quello prevalente nel nostro sistema, con un criterio invece di costo per qualità ed efficienza del servizio offerto. Il problema è, professor Ricolfi, che quando si tratta di individuare come fare, le regioni non si mettono mai d'accordo. Lei nei rapporti ha fatto chiaramente intendere che se si andasse verso un criterio dove il migliore viene preso come sistema di riferimento, molte decine di miliardi di euro sarebbero risparmiati. Ma come si fa davvero in concreto a mettersi d'accordo su numeri come questi? Ma intanto i miliardi sono parecchi, in effetti sono, secondo le stime che abbiamo fatto noi l'anno scorso, circa 20 miliardi di euro di risparmio ogni anno, se tutte le regioni fossero efficienti come le regioni più efficienti. Sul come fare ci sono sostanzialmente due approcci. C'è un approccio che noi non seguiamo, ma solo per mancanza di risorse, che è quello microanalitico, cioè si può partire addirittura dal singolo ospedale, dalle singole prestazioni dei cosiddetti DRG e con dei modelli pesare i vari livelli di prestazione e costruire degli indici sintetici a partire dal livello più disaggregato possibile. L'altro approccio invece parte dall'alto e utilizza degli indicatori sintetici, questo è quello che utilizziamo noi. E come indicatori sintetici i più importanti sono uno, i risultati delle indagini dell'Istat sulla soddisfazione degli utenti, che sono disaggregati in vari aspetti, soddisfazione per i medici, per gli infermieri, per le strutture, eccetera. E poi soprattutto guardare la mobilità attiva e passiva, cioè in una regione se i pazienti scappano per andare a curarsi in regioni considerate più efficienti oppure viceversa se arrivano. Questo è un criterio molto potente. E la cosa interessante è che i due criteri che ho appena menzionato sono correlati tra di loro. Noi abbiamo usato un mix di questi due. Da questo punto di vista, dottoressa Vaccaro, voi avete messo insieme appunto degli indicatori che sono sia degli indicatori oggettivi che si riferiscono a dati numerici di come è organizzato il sistema sanitario nelle diverse regioni, sia degli indicatori di giudizio rispetto alla qualità data dalle valutazioni dei cittadini. Ma nella sua opinione, visto che poi l'effetto di questa griglia di criteri è un effetto molto sgranato, perché si passa appunto dal 67,6 delle Romagna a 9,8 della Calabria, questo significa che in questa forbice molto aperta ci sono interessi che inevitabilmente saranno molto molto confliggenti quando si tratterà anche solo di mettersi d'accordo su quali criteri usare per decidere verso quale modello fare convergere l'utilizzo delle risorse. E quindi da questo punto di vista, visto che voi lo fate già per i fatti vostri, se doveste dare un consiglio alle commissioni tecniche che del ministro Calderoli dovranno poi entro pochi mesi mettersi d'accordo su quali di questi indicatori che voi usate, voi cosa fareste? Ma io ribadisco l'importanza di usare un mix di indicatori, perché come dire, gli elementi sono anche gli elementi di giudizio che noi abbiamo ricavato anche in altre indagini, non solo in quella citata da voi stamattina, sono sempre il combinato disposto, diciamo, di un giudizio di valutazione fornito dagli utenti, che peraltro è un giudizio a cui viene attribuita rilevanza anche dello stesso Servizio Sanitario Nazionale, insomma, per definizione, all'elemento invece di dotazione strutturale. Per esempio, nel dato che citava il professore sulla mobilità ospedaliera, noi abbiamo fatto un'indagine ad hoc su questo, diciamo, le motivazioni che spingono i pazienti a uscire dal proprio territorio ed andare a curarsi in ospedali di altre zone, anche molto lontane, sono anche lì il frutto di una decisione che mette insieme notizie, diciamo, spesso non di fonte acclarata sulla qualità del servizio dell'ospedale della Lombardia dove si decide di andare a curarsi, e poi, come dire, la ricerca di una qualità del servizio che non necessariamente è fondata, voglio dire. Quindi ci sono sia elementi di carattere soggettivo che elementi di carattere strutturale che poi spingono anche a determinare un indicatore come la mobilità ospedaliera, che sono d'accordo, è un indicatore potente, ma che è il frutto di questa duplice valutazione che viene fatta dai cittadini. Ricolfi, uno dei punti inevitabili, perché è al centro oramai su ogni provvedimento di queste ultime settimane, è questo del confronto tra efficienza e disponibilità di risorse nord-sud. Ora, se pensiamo in particolare alla sanità, lei, guardando i dati in questi ultimi anni dal punto di vista del criterio dell'utilizzo più o meno efficiente, ha l'impressione che in qualche misura possa ritenersi fondata la lamentela o il punto di vista, perché già dire lamentela lo qualifico, mi scuso, o il punto di vista di chi dice ci avete dato poche risorse e avete privilegiato il nord, è da questo che dipendono i diversi livelli di efficienza della sanità che voi riscontrate mettendo le diverse regioni a paragone? Ma in parte la lamentela è fondata, ma in piccolissima parte, nel senso che effettivamente ci sono alcune regioni del Mezzogiorno che sono sottofinanziate, cioè che pro capite ricevono un po' meno risorse di quelle medie nazionali. E ci sono alcune regioni del nord, in particolare quelle a statuto speciale, che ricevono più risorse della media. Per esempio la provincia di Bolzano ha più risorse della media, la Valle d'Aosta ha più risorse della media. Ma complessivamente, se uno guarda le tre grandi, o tre, quattro, cinque grandi aree del paese, a seconda dello schema che usiamo, il livello di finanziamento è del tutto simile. Giusto per darvi un'idea, il finanziamento pro capite oggi è nell'ordine di 1.800 euro ad abitante. Si va da un minimo di 1.600 a un massimo di 2.000 per la stragrande maggioranza delle regioni, quindi diciamo che c'è un finanziamento base di 1.800 più o meno 200 euro, più o meno il 10%. Quindi le differenze di finanziamento ci sono, alcune regioni stanno un pochino peggio, altre stanno un pochino meglio, ma non sono grandi differenze. Se invece guardiamo le differenze di efficienza, cioè che cosa producono con quelle risorse, beh, allora è impressionante lo spread. Lei ha citato giustamente l'ultimo rapporto del Censis, che va da 67.6 a 9.8, no? Emilia Romagna 67.6, Calabria 9.8. E i nostri dati sono del tutto analoghi e la graduatoria è del tutto simile. Cioè la cosa interessante è che qualsiasi analisi fatta con criteri ragionevoli porta una graduatoria di prodotto, di output, che è squilibratissima. Quindi diciamo che il problema del sud al 5%, al 10%, e che professore, me lo lasci dire questo da un punto di vista un po' critico, qui appunto più alla versione di Oscar, a coloro che dicono ah ma qui si spezza il paese se differenziamo troppo le fonti di finanziamento e rendiamo responsabili i singoli politici regionali di come le amministrano, dimenticano che la realtà già oggi concretamente offerta dal nostro sistema, oggi parliamo di sanità, in realtà si è spezzato il paese, certo. Esattamente. Assolutamente, è quello che io sostengo da anni, ahimè, cioè che questa polemica contro il federalismo assume che adesso ci sia un servizio omogeneo, ma questo non c'è né nella sanità, né nella scuola, né nell'assistenza, non c'è in nulla un'omogeneità, quindi noi partiamo da una situazione di divisione del paese e dobbiamo chiederci se il federalismo può riequilibrare, anche da un punto di vista di classe, perché io faccio questa considerazione. Mi è capitato l'anno scorso di andare in Sicilia, di parlare con dei giovani, e questi mi raccontavano sostanzialmente questa situazione. Dicevano qui in realtà si vive benissimo perché abbiamo un sacco di tempo libero, lavoriamo molto meno di voi, certo abbiamo dei problemi sui servizi sanitari, ma l'importante è conoscere un mafioso. Se tu sei malato e conosci un mafioso, per le cose piccole te ne stai nella tua regione, per le cose grandi ti fai consigliare e introdurre in una regione del nord ben organizzata. Allora lei immagina la diseguaglianza che è sottostante a un meccanismo di questo genere. Se le regioni meridionali avessero una sanità di qualità come quella del nord, non occorrerebbe conoscere un mafioso per curarsi per una patologia grave. Quindi direi una situazione molto più egualitaria. Abbiamo intanto una prima serie di interventi degli ascoltatori. Paola da Milano, prego. Buongiorno, io sono Paola e chiamo da Milano. Quello che ha detto il signore che ha parlato adesso in effetti è vero e quasi si allaccia al discorso che voglio fare io. Io ho una figlia malata di LES, il lupus, in cura qua a Milano, dove devo la sanità è meravigliosa, non tutti questi anni non ho mai dovuto tribulare. Le domande sono due. Perché dal meridione, nell'ospedale in cui è curata mia figlia, il Gaetano Pini di Milano, vengono un sacco di meridionali? Per il lupus c'è un protocollo solo, che non è poi una cosa così eccessiva. Perché dal sud vengono al nord? Primo, mia figlia ora è in dialisi, quindi dalla Maugeri di Pavia va in ferie a Napoli. Non ho trovato un posto in un ospedale pubblico, solo a pagamento, 2.700 euro, perché è turista, perché non c'è posto. Poi, come ha detto il signore di prima, grazie a una conoscenza ho trovato il posto nell'ospedale pubblico. Io questo non lo troverò mai normale. La ringrazio, molto gentile, ma quasi quasi mi ha già chiarito l'idea il signore, che è quasi logico. Ha capito, esattamente. È il lupus che vorrei sapere, perché il protocollo è uno il protocollo per il lupus. Vi ringrazio lo e so che uno, per voi. Paola, lo so che è uno, però il problema è che ciò che si trova negli ospedali da una parte, oltre al protocollo unico, e non si trova dalle altre parti. Questo spiega in larga misura le migrazioni da regione a regione, oltre invece poi alle specializzazioni diverse quando si tratta di particolari patologie o particolari terapie. Raffaele da Catanzaro, prego Raffaele. Buongiorno, la chiamavo per intervenire sull'argomento della sanità. Da come ho ascoltato siamo sempre all'ultimo posto anche in questa graduatoria. Io in questi giorni ho letto, ho sentito che cosa si vorrebbe fare a livello di intervento verso il sud, ma nel sud c'è anche la Calabria. E secondo me si sta ancora sbagliando strada. In effetti non è un problema di soldi. Il cittadino calabrese, o meno il cittadino del sud, non vuole più soldi delle altre regioni. Non è una questione di euro, ma di come verranno spesi questi soldi. Perché se verranno spesi con lo stesso sistema degli anni precedenti, purtroppo ci ritroveremo da qui a 2-3 anni, mi scuso per il rumore ma sono sulla strada. Prego. Ci ritroveremo da qui a 2-3 anni con gli stessi problemi. Allora, la politica nel sud, e io parlo della Calabria, è malata. Bisogna mandar via tutta la classe dirigenza politica, perché negli ultimi 20 anni non ha fatto altro che depredare i fondi che a noi sono stati dati per i nostri servizi. Ripartire da questo punto e poi adottare dei sistemi diversi di controllo sui fondi che vengono erogati per questo e per quell'altra cosa. Grazie Raffaele, mi pare un programma vasto per quanto comprensibile, ma si capisce che quando si parte da un giudizio mandiamo a casa tutti è un punto e a capo di un certo rilievo. Ancora Stefano da Padova e poi torniamo dai nostri ospiti. Prego Stefano. Buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori. Io sono un medico che lavora in Veneto e volevo fare un po' presente la situazione che c'è in Veneto, regione sicuramente efficiente dal punto di vista sanitario, ma che sta negli ultimi anni cercando di risparmiare in sanità a scapito del paziente. Mi trovo nella situazione, l'ultima legge regionale di un paio di anni fa che è stata fatta ha impedito di fatto la migrazione dei pazienti all'interno di diverse USL, all'interno della stessa regione. Mi trovo nella condizione, infatti, che sono stati fissati dei budget alle strutture private convenzionate del sistema sanitario, per cui possono operare soltanto un certo numero di pazienti provenienti da USL diversa da quella in cui è situata la struttura. Questo cosa comporta? Che paradossalmente io posso operare tranquillamente pazienti di qualsiasi altra regione, ma non posso più operare pazienti di Padova piuttosto che di Rovigo, Belluno o che altro, perché a questi è impedita la libera scelta del medico. E questo è un sistema di risparmio, tra l'altro, assolutamente inutile, perché gli stessi pazienti potranno essere operati da me o come da altri medici al di fuori della regione. Grazie Stefano, quindi c'è una contraddizione evidente nel poter dedicare le proprie cure eccetera eccetera a pazienti che vengono da altre regioni, avendo limiti invece per coloro che non appartengono all'azienda sanitaria della stessa regione ma diversa da quella in cui si opera. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di sanità, delle sanità differenziate nel nostro paese, sia per qualità che sono in grado di offrire, sia per come sanno spendere i soldi, sia per come, a parità di denaro speso, sanno diversamente organizzare con diversi coefficienti di soddisfazione i propri servizi, con diverse soddisfazioni per i propri clienti, cioè per tutti noi. E ora in questa seconda parte, oltre a Ricolfi e alla dottoressa Vaccaro, ci ha raggiunto in collegamento, molto lo ringrazio di questo perché so che ha molto da fare, il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a lei. Ecco, iniziamo con lei un secondo a tornare col punto di vista di chi è alla testa di un'importante regione italiana sui temi della nostra prima parte, cioè quando ci si deve avvicinare alla definizione di criteri condivisi con tutte le altre regioni e con il governo centrale su come fare marciare la ripartizione delle risorse, cioè il federalismo fiscale, mettendo al centro però anche criteri condivisi di qualità che si è in grado di offrire per l'utilizzo di unità finanziarie impiegate, si scopre che, come abbiamo visto prima, c'è una forbice in Italia molto ampia tra le diverse regioni e con regioni che hanno coefficienti di soddisfazione molto elevati e coefficienti di efficienza molto elevati e regioni del sud soprattutto che ce l'hanno molto bassi. Allora, Presidente, la prima cosa è come ci si può mettere d'accordo a quel tavolo su criteri condivisi davvero? Perché in realtà l'interesse di chi ha pesanti deficit e di chi ha bassa soddisfazione dei propri pazienti locali è molto diverso rispetto a chi ha già i conti in regola ed è in grado di offrire qualità molto elevata tanto da attirare molti pazienti da una regione all'altra. Lei è in questo secondo caso, perché tutti riconoscono la Lombardia livelli di eccellenza molto forti e livelli di sanità di gestione finanziaria molto elevati. Quindi a quel tavolo lei come si siederà? Con quale criterio? Guardi, mi siederò con grande prudenza e circospezione, nel senso che prima di arrivare a discutere veramente di numeri dovremo raggiungere un accordo sui criteri con i quali valutare questi numeri. Voglio dire, la confusione è somma sotto il cielo in Italia, perché le diverse regioni e lo Stato adottano criteri diversi di valutazione dei costi e in alcune regioni non c'è alcun criterio, quindi è attualmente pressoché impossibile andare a verificare quali sono i costi. E quindi se non vogliamo procedere con l'accetta, e non si può perché altrimenti rischiamo veramente di mettere definitivamente fuori mercato, fuori situazione alcuni sistemi sanitari, cioè intere regioni, bisognerà innanzitutto ragionare sul modo con cui andiamo a contare, a verificare quanto costano le prestazioni sanitarie nelle diverse regioni. Le faccio un esempio, anche perché la regione Lombardia è stata una delle pochissime regioni ad essersi dotata ormai da molti anni di un sistema chiaro e definito di quantificazione dei costi delle prestazioni, sia delle prestazioni di ricovero che di quelle specialistica ambulatoriale, e lo abbiamo fatto attraverso il famoso sistema dei DRG che rappresenta sia per gli erogatori pubblici che per quelli privati la remunerazione dei costi delle prestazioni stesse. Però appunto questo sistema è una peculiarità lombarda che non è stata adottata anche nelle altre regioni, dove invece il fondo sanitario regionale viene sostanzialmente tutto budgetizzato a livello di ASL, il che significa che è un costo vastissimo, completo, nel quale è difficile andare a distinguere le voci che remunerano gli ospedali, i servizi sanitari, le prestazioni, gli esami. Questo perché Regione Lombardia ha fatto 15 anni fa, all'epoca della nostra riforma sanitaria, la scelta della parificazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati, e ha fatto soprattutto la scelta di distinguere gli ospedali dalle aziende sanitarie locali, dando alle aziende sanitarie locali il compito di erogare i fondi, cioè di acquistare i servizi. Facendo questo, nel corso del tempo abbiamo fatto emergere quali sono i costi degli ospedali pubblici e privati che le ASL remuneravano pagando. Per le altre regioni invece non è stato così, diciamo che c'è una quota residuale di fondo sanitario che viene destinato agli erogatori privati accreditati, tutto il resto è molto spesso una voce unica. Quindi si tratterà di andare innanzitutto ad esaminare, cercando di essere d'accordo sui criteri, il modo con cui quantificare veramente il costo delle prestazioni. Quindi qui ci sono intanto tanto, per fare capire anche a chi non è un esperto, ci sono elementi di contabilità industriale, per così dire, cioè distinguendo chi eroga un servizio da chi lo deve offrire e mettendo bene in chiaro come le diverse cifre possono concorrere, convergere o divergere a questo fine. E anche a questo scopo la distinzione tra aziende ospedaliere e aziende sanitarie serve a rendere più trasparente. Secondo, poi c'è una filosofia di fondo, quello che il privato può concorrere secondo standard di servizi elevati insieme a tutto ciò che è pubblico alla configurazione di un sistema di sanità efficiente. E il problema però, Presidente, è che a quel tavolo il governo non sarà in grado di obbligare nessuno a sottoscrivere criteri condivisi. Eppure lei resta ottimista, cioè li si dovrà trovare per forza, lei dice. Io dico li si deve trovare per forza, perché la situazione ormai è divenuta insostenibile e finalmente è arrivata al livello dell'opinione pubblica. Era insostenibile da anni, ci sono alcune regioni che sono in pareggio, da anni ci sono alcune regioni che sono in dissesto profondissimo. Ricordiamoci i 10 miliardi di sfondamento del Lazio e i vari miliardi di sfondamento delle altre regioni, con il risultato di apportare una differenza tra i cittadini, perché i cittadini delle regioni che sono virtuose in realtà devono pagare con la fiscalità generale il dissesto di regioni che non è la loro, che è virtuosa, ma delle regioni che sono in grandissimo deficit. E poi insomma, gli sprechi, la corruttela sono evidentemente enormi e finalmente sono arrivati a livello dell'opinione pubblica. Quindi bisognerà fare chiarezza, entrando dentro nel dettaglio delle diverse situazioni, ovviamente rispettando il diritto che è sancito costituzionalmente di ogni regione di seguire una propria via al sistema sanitario. Tuttavia, io credo che soprattutto le regioni in difficoltà dovranno avere l'umiltà di un approccio che permetta loro di studiare i modelli organizzativi già consolidati nelle regioni che sono virtuose e di scegliere di prendere lezione, lo dico in maniera tecnica, cioè di scegliere di mutuare alcuni aspetti di questo modello, così come nello stesso modo dico che le regioni maggiormente avanzate devono essere coscienti che dovranno fare uno sforzo di solidarietà con impegno e con serietà, non tanto sul versante dei fondi, perché più di così non possiamo spremerci, ma sul versante dell'accompagnamento, della disponibilità d'accompagnamento delle regioni più in difficoltà. E però il governo dovrà insistere, a mio modo di vedere, perché si metta in piedi una rete di rilevamento dei dati assolutamente condivisa. Cioè noi dobbiamo a livello nazionale avere i flussi di informazione sulla rete ospedaliera, sull'assistenza territoriale, sulle regole di accreditamento e controllo, che devono essere identici dalle Alpi al Canale di Sicilia per le regioni grandi e per le regioni piccole. Cioè la prima operazione da fare sarà proprio andiamo a vedere qual è la situazione, perché oggi non c'è, guardi dottor Gino, voglio aggiungere una cosa, questo purtroppo vale anche in altri campi, non soltanto della sanità. Oggi il modo con cui vengono fatti i bilanci tra regione e regione varia da regione a regione, ma anche lo Stato è parte della stessa cosa, i ministeri fanno i loro bilanci sulla base di criteri diversi. Io personalmente al tavolo della conferenza Stato-Regioni sono 8 anni che chiedo ai governi di uniformare i criteri di valutazione e di calcolo della spesa pubblica. Né i governi da una parte né i governi dall'altra hanno mai acceduto a questa mia proposta, però se non facciamo questo l'Italia continua allegramente ad accumulare deficit in tutte le direzioni, il cittadino continua a pagare e noi continuiamo ad andare fuori mercato. Ancora due domande, Presidente, la prima è questa, faccio la sintesi di moltissimi sms che arrivano un po' da tutto il nord e dicono: ma non capiamo una cosa, se maggiore è l'inefficienza e i deficit accumulati del sud, maggiore è la migrazione interna dei pazienti di quelle aree verso le nostre regioni, alla fine saranno le nostre regioni più efficienti, meglio capaci di spendere, che però dovranno farsi carico anche di spese aggiuntive per via di chi ha già deficit e qualità bassa. Funziona così il fenomeno della migrazione sanitaria interna, Presidente? L'immigrazione sanitaria interna, le regioni di provenienza corrispondono alla regione che ha curato il loro cittadino il costo, quindi ci può essere un maggiore o minore ritardo nella erogazione di questo costo, ma questo non incide sulla regione più virtuosa. No, semmai la vera incidenza è a livello della fiscalità generale, come l'ho detto, perché poi il deficit delle regioni in rosso viene pagato dallo Stato prelevando dalla fiscalità generale, quindi prelevando una volta di più dalle regioni i cui cittadini sono più virtuosi, fanno meno evasione fiscale, pagano di più le tasse. E poi ancora il costo viene pagato dalle regioni virtuose, perché dato 100 il Fondo Sanitario Nazionale, che oggi appunto è di 100 miliardi, poco più, 102, 103, è chiaro che se alcune regioni sono in difficoltà hanno bisogno di più soldi, le altre regioni avranno di meno. Mi lasci citare un dato da questo punto di vista. La regione Lombardia, di cui voi avete parlato, e che ha i bilanci in pareggio da 6 anni e ha un livello di soddisfazione dei clienti altissimo, è quella che riceve, è al 15° posto nell'erogazione del fondo sanitario pro capite, cioè 14 regioni ricevono più di noi pro capite. Questo esalta ancora di più la bontà dei nostri risultati, perché riusciamo a fare quello che riusciamo a fare pur avendo meno fondi dallo Stato. Ma anche questo è un ulteriore bonus che paghiamo. Noi riusciamo anche con i soldi che abbiamo a garantire alcune prestazioni extra LEA cosiddette, al di là dei livelli essenziali d'assistenza. Se stabilissimo una quota capitaria identica per tutta Italia, beh, noi avremmo qualche centinaio di milioni in più all'anno, centinaia di milioni che ci permetterebbe di assistere i nostri cittadini con ulteriori prestazioni extra LEA. Non siamo mica tutti uguali davanti alla legge. Io dico perché il cittadino lombardo deve ricevere molto di meno del cittadino ligure, del cittadino friulano, del toscano, dell'umbro, dell'emiliano romagnolo, eccetera, eccetera. Ma è così. È da 12 anni, da quando io faccio il presidente della regione, lo faccio da 14, ma da 12 anni abbiamo unificato il sistema, che il cittadino lombardo è costantemente penalizzato e riceve 200-300 euro in meno all'anno rispetto ai cittadini delle altre regioni. Se noi parificassimo negli ultimi 10 anni avremmo altro che centinaia di milioni, qualche miliardo a disposizione a cui in questi anni abbiamo dovuto rinunciare, e il nostro sistema potrebbe puntare ancora di più verso l'alto. Presidente, un'ultima domanda, poi la salutiamo e restiamo ai suoi impegni. E come si vede, però, uno dei punti di fondo per chi guida una regione rispetto alla sanità, che è il 70-80% di ciò che poi pesa in ciò che fa davvero la regione per i suoi cittadini, diventa anche quello di comunicare diversi livelli di efficienza, di rendere partecipi e informati i cittadini dal basso, innanzitutto di come l'offerta si dispone sul territorio. Cioè, qui il problema è che se ho una malattia, una patologia eccetera, devo avere un quadro comparato di dove andare. Oggi in Italia spesso non ce l'ha e devo andare per conoscenza. Secondo, deve anche promuovere un'informazione consapevole e magari andare proprio sui punti di eccellenza dicendo: noi siamo bravi a fare questo anche meglio degli altri. Io so che su questo, perché non pensare per esempio anche a progetti di televisione specializzata pubblica, che anche negli ospedali si rivolga al pubblico di chi naturalmente non è ricoverato lì, ma facendo dell'informazione anche interattiva con le nuove risorse tecnologiche che ci sono di questi temi, una delle modalità più nuove, più diverse e più concrete di partecipazione alla vita pubblica. Qui il problema non è giudicare la sanità per politica, ma se premiando chi è in grado di offrire meglio. Questa televisione sanitaria negli ospedali, lei come la vede come idea? Ottima idea. Noi abbiamo una sperimentazione che è in corso nell'azienda ospedaliera di Vimercate, qui in Brianza. È un progetto pilota appunto di un canale televisivo tematico con display posizionati nelle sale di attesa, al centro prenotazioni, in giro in diversi punti del territorio, e i cui contenuti sono organizzati appunto in due filoni: da una parte le pillole di salute con consigli e accorgimenti di carattere preventivo, e poi informazioni all'utente su servizi e prestazioni offerte al sistema sanitario regionale. Sta funzionando molto bene, lo stiamo studiando e stiamo verificando come andare. Però il tema della comunicazione che lei diceva è assolutamente fondamentalissimo. Comunicazione allo scopo di responsabilizzare. Guardi, io ho presente un momento molto difficile nella mio fare il presidente di regione, quando nell'anno 2000 verificando i conti di Regione Lombardia, io mi accorsi, lo sapevo insomma, che c'erano dei deficit che ormai non era più possibile tollerare, alla luce anche della nuova Costituzione, il titolo quinto emendato, che imponeva alle regioni di andare in pareggio di bilancio. In quel momento io parlai chiaro ai miei cittadini, gli dissi: signori, la sanità lombarda, che ha delle potenzialità enormi, però in questo momento ha bisogno di più risorse, lo Stato ce ne dà poche, io vi devo chiedere la compartecipazione, e introdussi il ticket su molte specie specialità. Fui evidentemente attaccato da tutte le opposizioni in questo mondo, la sinistra, i sindacati, sbeffeggiato, attaccato, ma tenni duro e spiegai ai cittadini, e sentivo man mano che spiegavo che i cittadini erano con me. Quello sforzo straordinario su cui ho tenuto informati i cittadini ci ha permesso nel giro di 3 anni di tornare in pareggio. Noi, ripeto, siamo la regione che siamo in pareggio da un periodo di tempo più lungo, da 6 anni, e in quel momento io potei levare il ticket e dissi ai cittadini grazie, perché insieme abbiamo fatto un'operazione di grandissima responsabilità. Io, governatore, mi sono assunto le mie responsabilità e vi ho detto c'è bisogno di fare uno sforzo ulteriore. Voi lo avete accettato, attenzione, ci fu di mezzo anche un'elezione. Nel 2005 io mi presentai alle elezioni regionali avendo ancora il ticket, contestantissima posizione, ma io spiegai ai cittadini: se non siete d'accordo con la mia politica sanitaria evidentemente votate contro di me. E invece mi votarono, mi confermarono, a dimostrazione che il cittadino è disponibile anche ad uno sforzo limitato nel tempo se vede che i risultati alla fine sono positivi. E quindi si può informare per ottenere consenso e fare scelte coraggiose. Grazie Presidente Formigoni. Eccoci tornati a occuparci di sanità e di criteri, come vedete, non troppo condivisi per capire come si spende in sanità, come si organizza la qualità dei servizi. Alcune telefonate e poi torniamo con il professor Ricolfi e la dottoressa Vaccaro. Giuseppe da Pisa, prego Giuseppe. Buongiorno, senta, io ho chiamato per un semplice motivo: mi sto occupando da circa 30 anni dei livelli, cioè sono quelle rendite perpetue a favore di enti pubblici, prima del crisi enti, ora pubblici comunque. C'è una valanga di denaro disponibile per questi enti e nessuno si muove per fare qualcosa. Io ho avuto diversi incarichi, tra l'altro dall'USL 5 di Pisa in questo momento, sono 4 anni che a costo zero potrebbero incassare da 3 ai 15 miliardi e milioni di euro, va bene? E non si muovono, cioè stiamo aspettando da 4 anni il via definitivo. Motivo per cui non si muovono? Se lo dicessi ora qui, siamo in radio, non posso allungare le cose, ma dovrei fare delle denunce enormi perché c'è stata proprio trasgressione da parte. Tra l'altro, io mi auguro che comunque nell'adempimento del suo dovere le denunce, se c'è qualche cosa che merita denuncia, lei le faccia, Giuseppe, perché altrimenti in questa ovviamente fase devo aspettare che si concluda la faccenda. Ho capito, la ringrazio tanto molto della segnalazione. Ancora abbiamo Giuseppe da Brescia, prego Giuseppe. Pronto? Non c'è più? Sì, prego, pronto, Giuseppe. Pronto. Buongiorno. Intanto i complimenti, non d'ufficio ma sinceri, perché la seguo spesso e volentieri. Ma io volevo segnalare... Venga al punto, cosa. I complimenti sì, sono no. graditi ma ci fanno perdere tempo. Ok, d'accordo. Mi riallaccio a quello che diceva una testimonianza lì nel vostro studio del siciliano che doveva conoscere il mafioso per andare a fare le cose grandi o le cose piccole. Non è così. Dal mio punto di vista, e sono testimone anche perché vengo dal sud, nel bene e nel male la colpa quasi sempre, non tutta, ma una buona parte dei medici di base. Il medico di base, quando va la gente lì, siccome spesso e volentieri è anche intrecciato con la politica, o 9 volte su 10 è il sindaco del paesino, ordina ricette, malattie, per certificati. Attenzione di... Giuseppe, che lei si farà accusare di becero antimeridionalismo, eh? No, ma guardi, sono un testimone del sud e del nord, perché vivo da 25 anni al nord. Non dico che le cose al nord non funzionino così, ma in una piccolissima minoranza i rapporti di percentuale sono invertiti. Se lì al sud il 5-10% fa il proprio dovere, qui evidentemente il 5-10% non lo fa. Ecco, quindi i valori sono parallelamente opposti, ma gli stessi valori. Ecco perché la sanità del sud, della Sicilia, non può andare avanti, perché è fatta di molti piccoli paesi dove i medici, i farmacisti la fanno da padrone, sono loro che va lì la vecchietta che ha bisogno, spesso e volentieri ordinano le medicine. Grazie Giuseppe, la sua tesi è che quindi le colpe sono equamente condivise e diffuse anche dal basso del sistema, per così dire. Carlo da Roma, ultima chiamata, prego Carlo. Sì, buongiorno. Io ho sentito una sapiente trasmissione sui controlli e sui criteri, che sono dei fatti tecnico-amministrativi, diciamo. Il vero nocciolo del problema è che la politica dovrebbe certo mettere in piedi degli rigorosi controlli, standard, magari non standard, perché ci sono delle disparità anche ambientali nelle varie regioni, ma non dovrebbe coincidere la sua capacità di controllo con quella di decidere le spese. Invece abbiamo visto che anche il pur eccellente Formigoni, da tutti riconosciuto e soprattutto dagli elettori, in realtà si trova a dover chiedere soldi ai suoi nonostante la sua bravura. Il problema della sanità non è un problema né medico né politico, è un problema tecnico, lo sappiamo da tutti, scopriamo l'acqua calda, cioè è assicurativo per quanto riguarda la copertura e l'organizzazione delle polizze e il prezzo delle polizze, ed è ingegneristico, tecnologico, nel senso anche di chimico-farmaceutico, perché i progressi risanano quelle che una volta erano malattie incurabili, e così anche le protesi. Mi spiego, la logistica si basa da molto ormai dalla seconda guerra mondiale sul criterio ABC. Cos'è l'ABC? Attenzione Carlo, perché iniziamo con l'ABC e le ho già dato un minuto e mezzo. Ci sono dei grossi interventi che debbono andare erga omnes e magari a carico della fiscalità generale, che non costano nulla. Per esempio, trapianto di polmone e fegato, a nessuno viene in mente di truffare l'assicurazione facendosi fare un trapianto di polmone e fegato. Poi esiste all'estremo opposto, C, l'optalidon o il profilattico. Questo deve essere a carico totale del singolo. Poi c'è una cosa intermedia che si chiama B, dove i progressi costanti della scienza, se c'è un'assicurazione privata che per risparmiare sulle prezze investe in ricerca. Caro, la devo interrompere, ma è chiaro quello che ha detto, bisogna compartecipare più aprendo al privato tutto ciò che non è per patologie straordinariamente gravi, eccetera eccetera, compartecipando il costo della copertura finanziaria e anche l'offerta, è molto chiaro, si poteva dire più in sintesi, la sintesi è sempre una grande cosa alla radio, ma per capirsi tra tutti noi. Professor Ricolfi diceva, andiamo in conclusione, tornando sul punto da cui siamo partiti, come si fa a mettersi d'accordo a un tavolo con i presidenti delle regioni e con il governo quando qua non ci sono neanche criteri di bilancio condivisi? Diceva Formigoni, bisognerà farlo, però il bisognerà farlo è una dichiarazione di ottimismo. In concreto, lei come osservatore si aspetta che avverrà, e se non avvenisse, cosa diavolo sarà poi alla fine questo federalismo fiscale se non c'è neanche un criterio contabile, non dico di efficienza ma condiviso, perché qui entro 2-3 anni bisognerà farlo, l'impegno che hanno preso in Parlamento è di farlo. Lei che dice? Ma io sono esterrefatto come cittadino che dopo 10 anni che si parla intensamente di federalismo manchi di infrastruttura informativa per fare il federalismo, una cosa che Tremonti ha segnalato già da parecchio tempo, ma a cui non si sta assolutamente ponendo rimedio. Noi stiamo per veramente però i suoi colleghi ministri dicono che il primo a non volerla mettere in piedi è lui, perché così sarà lui a fare i numeretti. Questo io non lo so valutare, perché questi aspetti della politica mi sfuggono, ci sono delle conoscenze di dettaglio sui rapporti politici tra i big che sono fuori della mia sfera di attenzione, non lo so perché va così. Però il punto è che noi quest'autunno avremo i primi decreti delegati e manca completamente quello che giustamente Formigoni richiedeva, cioè degli schemi contabili condivisi e comuni, prima ancora di stabilire i criteri, perché si può litigare sui criteri, ma se l'infrastruttura informativa è trasparente. Dato che manca questo, io penso che si andrà su dei criteri molto approssimativi e soprattutto si andrà per passi molto brevi, molto piccoli, voglio dire. Immagino che potrebbe succedere quello che è successo con l'università, cioè che si prende una graduatoria fatta qualche anno prima da un comitato più o meno accreditato, nel nostro caso era una graduatoria ben fatta a mio parere, e si comincia cautamente, prudentemente a penalizzare le regioni in default e a premiare le regioni in pareggio. Però il problema è che partiamo da dei deficit tali per cui in alcune regioni, anche del nord, per esempio la mia, il Piemonte, lo sforo è talmente grande che bisognerà sicuramente chiedere un contributo ai cittadini, e queste sono decisioni politiche che nessuno ha il coraggio di prendere. Io non so come faranno, penso, certo, che che andremo avanti molto molto lentamente, perché la maggior parte delle regioni è in dissesto, quelle in pareggio non sono molte. Certo, grazie Ricolfi. Dottoressa Vaccaro, un'ultima cosa su nord e sud. Siccome al sud tutti sono d'accordo, troppi ospedali con offerte non qualificate, ma il problema sono troppi ospedali, poca assistenza qualificata invece degli anziani a casa, eccetera eccetera. Perché troppi ospedali? Perché erano in realtà centri di potere politico per questo, secondo lei? Allora, la sanità, ma per la verità non solo al sud, direi in tutta Italia, lei accennava al fatto che il bilancio delle regioni è per l'80% fatto da sanità, e questo non è un fattore ininfluente. La sanità diventa in tutte le regioni e al sud in particolare uno strumento di gestione del consenso, cioè tutte le polemiche sulla chiusura dei piccoli ospedali, per esempio, sono legate alle difficoltà che gli amministratori hanno a far digerire quella decisione che Formigoni è stato così bravo da far digerire, di caricare sulla situazione di un territorio già deprivato per altri aspetti, perché non ci dimentichiamo che il quadro dell'offerta, il quadro della salute hanno un preciso rispecchiamento nel quadro delle condizioni socio-economiche più complessive. Quindi sicuramente io, se devo chiudere un piccolo ospedale creando situazioni di efficienza rispetto all'utilizzo delle risorse, o devo poi gestire il dissenso popolare con tutto quello che questo può comportare. Esiste un problema di qualità e di caratteristica dell'offerta al sud, che è legata a questa sperequazione nel rapporto fra ospedale e territorio, ma che è anche legata alla sperequazione per esempio sotto il profilo della gestione pubblica e privata, a cui si faceva riferimento all'inizio. Non è, per esempio, la dialisi è una attività che al sud viene garantita in larghissima misura dalle strutture private convenzionate, e questo determina una situazione di costi più elevata e anche una differente qualità dell'offerta che viene garantita ai cittadini. I cittadini del sud non possono fare la peritoneale, per esempio, o la fanno in misura molto minore perché le strutture private non la fanno. Ecco, voglio dire. No, è chiarissimo quello che ha detto. Mi pare di capire che bisogna essere realisti, e il cammino della convergenza è un cammino per il momento ancora disseminato di molte difficoltà e asperità, e questo spiega anche perché poi il nord e sud è ridiventato un motivo di polemica politica al di là delle parole d'ordine elettorali. Non mi resta che salutare, ringraziare in regia Giorgio Mattei, Valerio Rocchetti, i miei bracci destri Gloria Guerriera e Laura Faggin. Chi fosse interessato ai miei approfondimenti quotidiani li trova www.chicago-blog.it, e l'appuntamento a domani, la linea al giornale radio. Mm-hmm.